in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla lettura dei quotidiani che sono in edicola questa mattina. La legge di stabilità e le novità che il Parlamento si appresta a far diventare definitive nel corso della settimana che si apre domani sono in evidenza su tutti i quotidiani, ma naturalmente anche la protesta dei forconi cosiddetta o del Movimento 9 dicembre, come preferite chiamarla, occupa ampio spazio. Soprattutto della legge di stabilità fa notizia la previsione di avere una maggiore quantità di soldi in busta paga grazie al taglio del cosiddetto cuneo fiscale, cioè del peso di tasse e contributi sulla busta paga. Così titola il Messaggero: più soldi in busta paga dal 2014, manovra, tagli di spesa, lotta all'evasione alimenteranno un fondo per ridurre le tasse sul lavoro. E poi un emendamento PD, segnala il Messaggero nel suo titolo, contiene una nuova stretta agli stipendi degli statali. Per le seconde case c'è il caos per il saldo IMU. Scade domani, ricordiamo, domani scade per le seconde case, i capannoni, gli immobili cosiddetti commerciali, quindi negozi, uffici, e attenzione poi alle delibere comunali per quanto riguarda eventuali più pertinenze della prima casa, perché sostanzialmente la prima pertinenza è compresa, ma se ne possiedono due, quindi un box e una cantina, bisogna verificare cosa ha deciso il comune sul sito del comune stesso. Sia sul sito di Radio 24 sia sul sito del Sole 24 Ore sono a disposizione anche dei calcolatori per verificare i conti, appunto, per l'imposta municipale unica. E poi grava naturalmente e crea ulteriore confusione il fatto che si potrà dover pagare al 16 di gennaio, però, e non domani, una quota ancora residua dell'IMU prima casa, ma di questo ci occuperemo a tempo debito. Sempre sul Messaggero la notizia della protesta dei forconi, assalto alla CDU, è arrestato a Roma il leader di Casa Pound. Mercoledì manifestanti nella capitale, segnala anche poi nelle pagine interne con preoccupazione il quotidiano romano. Ma probabilmente il giornale, il quotidiano che oggi ha la notizia più esclusiva è La Stampa, perché La Stampa si presenta con una prima pagina, una grande foto di Papa Francesco e un'intervista al Papa. Così viene definita, nel gergo insomma giornalistico si preferisce parlare di colloqui quando i personaggi sono di tanta importanza, ma così appunto riferisce il titolo della Stampa: intervista con Papa Francesco che dice la Chiesa se non sa abbracciare diventa un corpo freddo. E il titolo grande del quotidiano torinese è mai avere paura della tenerezza, tra virgolette, una delle frasi appunto che Papa Francesco ha detto ad Andrea Tornielli che lo ha incontrato. Sempre in prima pagina sulla Stampa alcuni stralci del colloquio con il Santo Padre: l'ecumenismo è prioritario. I cristiani vengono uccisi perché portano una croce al collo, ha detto il Papa. Dobbiamo partire dal sangue mischiato per unire i cristiani. E poi il rapporto tra Chiesa e politica, dice Papa Bergoglio, può essere convergente solo se serve ad aiutare il popolo. Quando non avviene inizia un connubio col potere che imputridisce la Chiesa. E poi l'accusa di marxismo, qualche critico appunto ha sollevato accuse di marxismo dal Papa, per lo più dagli Stati Uniti. Non mi ha offeso, dice il Papa, perché nella vita ho conosciuto tanti marxisti buoni come persone. L'ideologia marxista è sbagliata. All'interno dedichiamo qualche minuto naturalmente a questo colloquio con il Papa, che poi sulla Stampa occupa tre intere pagine. Il titolo è: all'interno coltivate la speranza, non abbiate paura della tenerezza. Chiede Andrea Tornielli, il Natale viene spesso presentato come fiaba zuccherosa, ma Dio nasce in un mondo dove c'è anche tanta sofferenza e miseria. Dice il Papa, quello che leggiamo nei Vangeli è un annuncio di gioia, gli evangelisti hanno descritto una gioia. Non si fanno considerazioni sul mondo ingiusto, su come faccia Dio a nascere in un mondo così. Tutto questo è il frutto di una nostra contemplazione. I poveri, il bambino che deve nascere nella precarietà. Il Natale non è stata la denuncia dell'ingiustizia l'ingiustizia sociale della povertà, è stato un annuncio di gioia. Tutto il resto sono conseguenze che noi traiamo, alcune giuste, altre meno giuste, altre ancora ideologizzate. Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio interiore, di luce, di pace. Quando non si ha la capacità o si è in una situazione umana che non ti permette di comprendere questa gioia, si vive la festa con l'allegria mondana. Ma tra la gioia profonda e l'allegria mondana c'è differenza. Più oltre, dice il Papa, interviene sulla fame nel mondo, sulle sofferenze specialmente dei bambini. Gli chiede Tornielli, parlando della sofferenza dei bambini, non si può dimenticare la tragedia di chi soffre la fame. E qui il Papa, come ormai ci è abituato a fare, racconta anche da un po' un aneddoto, ricorre a un aneddoto per illustrare la sua posizione. Con il cibo che avanziamo e buttiamo, così comincia, potremmo dar da mangiare a tantissimi. Se riuscissimo a non sprecare, a riciclare il cibo, la fame nel mondo diminuirebbe di molto. Mi ha impressionato leggere una statistica che parla di 10.000 bambini morti di fame ogni giorno nel mondo. Ci sono tanti bambini che piangono perché hanno fame, dice il Papa. L'altro giorno, all'udienza del mercoledì, dietro una transenna, una giovane donna con il suo bambino di pochi mesi, quando sono passato il bambino piangeva tanto. La madre lo accarezzava, le ho detto, signora, credo che il piccolo abbia fame. Lei ha risposto, sì, sarebbe l'ora. Ho replicato, ma gli dia da mangiare, per favore. Lei aveva pudore e non voleva allattarlo in pubblico mentre passava il Papa. Ecco, vorrei dire lo stesso all'umanità, date da mangiare. Quella donna aveva il latte per il suo bambino, nel mondo abbiamo sufficiente cibo per sfamare tutti. Se lavoriamo con le organizzazioni umanitarie, riusciamo a essere tutti d'accordo nel non sprecare il cibo, facendolo arrivare a chi ne ha bisogno, daremo un grande contributo per risolvere la tragedia della fame nel mondo. Vorrei ripetere all'umanità ciò che ho detto a quella mamma, date da mangiare a chi ha fame. Ancora sul qualche spunto invece più di attualità, sempre da questo colloquio di Andrea Tornielli con Papa Bergoglio, quanto ai divorziati risposati, chiede Tornielli, l'esclusione dalla comunione per i divorziati che vivono una seconda unione non è una sanzione, è bene ricordarlo, ma di questo, dice, nella mia esortazione non ho parlato. E poi ancora, posso chiederle se avremo donne cardinale? Papa Bergoglio risponde con una battuta in qualche modo, perché dice è una battuta uscita da non so dove, ma le donne nella Chiesa devono essere valorizzate, non clericalizzate. Chi pensa alle donne cardinale soffre un po' di clericalismo. Questo e molto altro naturalmente nella intervista, che nel colloquio che trovate sulla Stampa oggi, colloquio appunto con il Santo Padre. L'unico titolo che riesce a ricavarsi uno spazio rispetto alla presentazione del colloquio con il Papa è quello appunto per la legge di stabilità, anche per la Stampa, pensioni sì alla rivalutazione. Nello stesso titolo trovano posto anche le proteste dei Forconi, altro tema appunto, come vi dicevo, molto presente, molto trattato dalle pagine dei giornali. In piazza Forconi, sindacati e studenti, scontri, 7 denunce a Torino. Torino è stata una delle città che ieri hanno visto gli scontri più duri, specialmente tra gli studenti che sfilavano. Il Corriere della Sera decide di destinare il suo titolo principale alla legge di stabilità, più tagli alle tasse sul lavoro, in sostanza appunto riduzione del cuneo fiscale e quindi un aumento atteso di disponibilità di risorse, di soldi in busta paga, quindi in qualche modo netto in busta paga più alto è l'effetto di queste decisioni contenute nella legge di stabilità, che però, ripetiamo, deve ancora essere confermata dal voto finale in Parlamento. Sono gli emendamenti dell'esecutivo, quindi le proposte di correzione che il governo stesso ha presentato, e dice, annuncia il Corriere, cosa cambia per imprese, pensioni e statali. Il fondo che consentirà di tagliare le tasse sul lavoro, quindi di dare più soldi, di aumentare il netto in busta paga, il fondo per questo cuneo fiscale verrà dalla lotta all'evasione e dalla riduzione delle spese, la cosiddetta spending review. Sul Corriere della Sera, oltre alla foto che ricorda le proteste di ieri e rimanda poi alle proteste in generale, il Movimento 9 dicembre dei Forconi, anche una notizia che viene da Massimo Gaggi: la rinuncia ai cellulari in volo. Succede in America, perché appunto nonostante sia tecnicamente possibile consentire l'utilizzo dei cellulari durante i voli aerei, diverse statistiche e sondaggi mostrano che i passeggeri non sono affatto d'accordo. In maggioranza, anzi, preferirebbero che i cellulari in volo venissero spenti per garantire tranquillità. Scrive Gaggi: sembrava fatta almeno in America, uso dei cellulari libero in aereo in ogni parte del volo, ma appena l'Autority Federale delle Comunicazioni si è fatta avanti, negli Stati Uniti è scoppiata una rivolta quasi universale. Passeggeri, sindacati, gli assistenti di volo e le stesse compagnie aeree, tutti scatenati contro la libertà di telefonata, che infatti potrebbe significare per ogni passeggero il rischio di trovarsi frastornato tra un manager in perenne conference call e una lite domestica ad alto volume. Prima di fermarci qualche istante per ascoltare le previsioni meteorologiche, vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore: Consob ferma BlackRock, vicenda telefonica. Su Telecom, regole violate. Vegas, che intervistato da Antonella Olivieri, dice al fondo USA: è una manipolazione informativa. E poi ecco chi deve pagare il saldo dell'IMU. Una pagina all'interno del Sole 24 Ore di oggi ricorda tutte le regole essenziali. E stabilità anche sulla prima pagina del Sole: governo pronto con il fondo tagliacuni. In primo piano. Bentornati, ancora buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla lettura, alla visione dei quotidiani questa mattina in edicola. La Repubblica si occupa dei soldi, del finanziamento ai partiti, soldi ai partiti, Renzi sfida Grillo, appunto il sindaco e neo segretario al Partito Democratico dice: rinuncio subito al finanziamento se lui approva la riforma elettorale. E poi sempre in prima pagina della Repubblica: 1 miliardo per gli affitti, lo spreco dello Stato inquilino. Ministeri italiani anche in tempi di spending review occupano immobili in affitto contraendo debiti fuori bilancio, è la segnalazione in prima pagina di Repubblica. Nel frattempo il Demanio gestiva immobili inutilizzati di sua proprietà per un valore di vari miliardi. Si segnala anche il ritorno dello scudo fiscale per far tornare i capitali dall'estero. Come sapete, sono già diverse settimane che si discute di questa misura, che è un po' particolare, appunto una sorta di disvelamento volontario da parte di chi si trova in questa condizione, misura che però, come abbiamo riferito sul Sole 24 Ore anche negli ultimi giorni, ha un problema quando il comportamento scorretto dal punto di vista fiscale è anche sanzionabile dal punto di vista penale, e questo sembra essere appunto il nodo essenziale attorno al quale ruota questa possibile quarta edizione, se non ricordiamo male, dello scudo fiscale. Così appunto dalla prima pagina di Repubblica. Ritorniamo per qualche istante sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, prima di fermarci per ascoltare le condizioni meteo, una pagina all'interno che si occupa del saldo dell'IMU, quindi con il ricordo dei casi particolari. E domani si annuncia una pagina sul Sole 24 Ore di domani con gli ultimi controlli da fare e anche come rimediare agli errori che più frequentemente si possono commettere nel pagamento del saldo dell'IMU. Domani, ricordiamo, poi scade per molti comuni anche il pagamento TARES. In pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore il dettaglio delle novità contenute nella legge di stabilità. Questa settimana arriva al voto finale la legge di stabilità. Vi do indicazioni dalla scheda che accompagna l'articolo di Marco Mobile e Claudio Tucci. Cuneo fiscale, appunto, come titolava anche il Corriere della Sera, un fondo diviso a metà tra lavoratori e imprese per ridurre le tasse in busta paga e quindi far aumentare il netto disponibile, e nonché le risorse a disposizione delle aziende. Per le pensioni la rivalutazione sale al 95% per pensioni tra 1.500 e 2.000 euro mensili. Stipendi della pubblica amministrazione, c'è una misura di stretta per evitare il cosiddetto galleggiamento, cioè chi ha ricoperto alcuni incarichi esterni torna a svolgere mansioni nell'amministrazione, non conserverà più i trattamenti economici superiori che erano legati all'incarico precedente. La norma sugli stadi, ne abbiamo parlato in questi giorni, in arrivo norme appunto per agevolare la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, si va dalla possibilità di un credito agevolato per costruire o ristrutturare fino alle semplificazioni procedurali per le autorizzazioni. La Tobin Tax, il governo ancora in cerca della quadra, segnala il Sole 24 Ore, e poi la mobilità universitaria, quindi possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti. Della pagina dell'IMU vi ho detto, vi rimando appunto a quanto trovate oggi all'interno sul Sole 24 Ore. Il saldo IMU, tra l'altro, attenzione anche alle case assegnate ai figli, perché si ricorda già dal titolo, esenzione possibile solo con delibera del comune. Ma un ultimo punto di riflessione, se volete, dal Sole 24 Ore di oggi, da un articolo di Lina Palmerini che illustra un sondaggio condotto dall'Ipsos appunto per il nostro quotidiano, e il titolo già è sorprendente: IMU, per un italiano su due era meglio mantenerla. E poi, per quanto riguarda le riforme, sì al bipartitismo. L'articolo appunto di Lina Palmerini dice: nonostante la crisi morda ancora, nonostante gli italiani continuino a proiettare sulle feste un clima di sfiducia, quasi la metà ritiene sia stato un errore abolire l'IMU. Era meglio mantenerla, e questo è il dato sorprendente del sondaggio Ipsos. Doppiamente spiazzante, perché si tratta di una tassa odiata e perché dovrebbe essere a maggior ragione odiata in tempi di congiuntura negativa e contrazione dei redditi. Invece il 49% del campione che ha risposto al sondaggio dice che è stato uno sbaglio abolirla, mentre per il 47% è stata giusta la decisione del governo. Trovate a pagina 8 del Sole 24 Ore di oggi le risposte che sono state fornite dai cittadini al sondaggio di Ipsos, e appunto oltre questo 47% contro il 49% la partita dell'IMU, 49 dice era meglio mantenerla, 47% hanno detto no, è stato giusto abolirla. Poi ci sono le previsioni, o potremmo dire l'indice di le attese per gli acquisti di Natale. Secondo lei è stato chiesto il paese, scusate, nell'attuale situazione di crisi economica che sta attraversando il paese, ci sarà una riduzione delle spese per i festeggiamenti del Natale, e qui c'è sostanzialmente un plebiscito. Il 35% ha detto molto, si rinuncerà a tutto o quasi per pagare i debiti. Il 47%, peraltro, erano possibili più risposte anche, ha detto abbastanza, si faranno solo le spese indispensabili. Soltanto per un minuscolo 3% la situazione non è così grave e non ci saranno riduzioni. Quindi è sostanzialmente un plebiscito quello che accompagna la domanda su ridurrete, pensate di ridurre, pensate che ridurremo le spese per il Natale. Vorrei segnalarvi, e apriamo con questo il tema cosiddetto delle rivolte dei forconi, la prima pagina di Avvenire, che unisce sia le proteste appunto che in questi giorni stanno bloccando le strade, sia anche le proteste che sono scoppiate ieri soprattutto a Torino e a Roma. Le piazze ribollono, è il titolo principale di Avvenire, tra disagio e furbizie. Altri incidenti: dai sindacati protesta pacifica, forconi, disoccupati e universitari, ma anche estremisti di destra e sinistra nell'Italia che dice no. Fermato il leader di Casa Pound. All'interno due pagine che raccontano appunto la giornata e le prospettive della settimana che si va ad aprire domani. Scontri e tensioni, l'Italia che dice no, è il titolo nella pagina 7 di Avvenire, ancora scontri ieri in varie città italiane, riferisce un breve tratto di cronaca, con il fronte delle proteste sempre più frammentato, ma che allo stesso tempo si affaccia su nuove piazze. È successo in Lombardia, un gruppo di manifestanti che è riuscito a ostacolare la circolazione ferroviaria a Gallarate, non lontano da Malpensa, e poi ancora in Puglia, in Veneto e in Umbria. Quasi in ogni regione ci sono stati focolai di protesta. E poi le città dove, ricordate in una cartina, dove le proteste sono state maggiori, le città dei blocchi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Padova e poi più scendendo verso sud, Bari, Roma, in Sardegna e anche in Sicilia, le manifestazioni di forconi, disoccupati, autotrasportatori. La cartina fa anche capire come queste proteste riuniscano spesso, ma in modo non uniforme, sul territorio, appunto, sia le proteste degli studenti, sia le proteste per quanto riguarda il Piemonte, ad esempio, dei Notav. Da altre parti invece si tratta più degli autotrasportatori, sono loro ad alimentare la protesta. E poi l'inquietante episodio di uno sparo contro una manifestante, episodio giudicato dalla polizia come una bravata, a Termoli, da un'autovettura che transitava nei pressi della rotonda dove la ragazza distribuiva volantini, è spuntata una pistola ad aria compressa ed è partito un colpo nella sua direzione, fortunatamente mancando il bersaglio. Questo successo a Termoli, provincia di Campobasso, appunto, come riferisce oggi Avvenire. E restando in tema di forconi, allora, da Repubblica, che in qualche modo riunisce con intento anche estremamente utile, visto che ci avviciniamo a una tre giorni che dovrebbe culminare poi mercoledì nelle proteste nella capitale, spiega appunto Corrado Zunino come adesso il movimento 9 dicembre stia provando a darsi una struttura credibile. Ieri è stato battezzato un gruppo dirigente ristretto, 8 persone in tutto, imprenditori industriali, edili, agricoltori, autotrasportatori, allevatori. Di questi solo 3 degli 8 hanno diritto di parola, sono Mariano Ferro, imprenditore agricolo, Danilo Calvani, pure imprenditore dell'Agro Pontino, e Lucio Chiavegato, leader di LIFE, di imprenditori federalisti. Lucio Chiavegato, post-leghista, viene definito da Zunino, con istanze secessioniste. Gli 8 rappresentano Sicilia, Puglia, Lazio e Veneto. Torino, capitale della sommossa, non ha però uomini nel direttorio. Tutto questo su Repubblica. Si legge appunto il pioniere, l'indipendentista, l'agricoltore, ecco il triumvirato che guida gli arrabbiati. Solo 3 portavoce autorizzati a parlare, Zunino è stato estromesso dopo le polemiche sull'antisemitismo. In primo piano. Bentornati, ancora buona domenica da Mauro Meazza. Stavamo riferendo delle proteste dei forconi o del movimento 9 dicembre. Dalle pagine di Repubblica, appunto, la costituzione di questo direttorio delle proteste con 8 componenti e 3 portavoce. Tra questi 8 componenti sono stati scelti 3 portavoce: Mariano Ferro, Danilo Calvani, Lucio Chiavegato. Schiaffo dei forconi al governo è il titolo nelle pagine interne di Repubblica. Con Roma non si tratta, gelo dopo i primi contatti. Berlusconi, che ieri nel corso di una telefonata appunto a una sede di Forza Italia, ha detto la rivolta è giusta, insomma, in un certo senso è sembrato condividere le ragioni della protesta. Nella pagina accanto, basta minacce, torniamo a lavorare, ora i commercianti scaricano i ribelli. A Torino il viaggio nei mercati e nelle vie dei negozi, stanchi delle loro prepotenze. E si riferisce appunto nell'articolo di Paolo Griseri il malessere dei commercianti, degli ambulanti del mercato di Porta Palazzo, che sono stati appunto impediti anche di esporre la merce durante i giorni della protesta. Protesta che ieri, come avete sentito, si è anche accompagnata alle manifestazioni degli studenti, e proprio sugli studenti e sui laureati si riesce a fare questa mattina, e vorrei provare a fare questa mattina, un curioso collage tra 3 segnalazioni differenti. Da una parte una lettera che viene segnalata anche in prima pagina sul Messaggero, io, laureata, costretta a lasciare il mio paese. Si legge nella lettera che viene poi pubblicata nelle pagine interne di quella, la vicenda di questa laureata, appunto, sono, che dice: ho solo 30 anni ma sono già stanca. Lei sa la fatica che ho fatto per portare a termine i miei studi, anni passati a studiare lingua e letteratura greca, lavando i piatti fino a notte fonda e lavorando per mantenermi agli studi. Poi il dottorato, la possibilità di concentrarmi su un tema nuovo, forse per la prima volta, se mi volto indietro, posso sentire la contentezza per quello che ho raggiunto. Eppure non c'è che dire, so di essere incompleta, so che più che viverla la vita la sto rincorrendo. Perché? Perché scrive questa laureata Viviana al Messaggero: la borsa di studio che ho ottenuto l'anno scorso, oltre che scarsa, è breve, fra pochi mesi finisce, non so cosa potrò aspettarmi. Di nuovo sarò in balia dei bandi e spostamenti in chissà quali parti d'Europa. Questo accadrà se troverò un lavoro. La mia permanenza in Italia invece è paradossalmente legata all'impossibilità di trovare borse di studio altrove e quindi un lavoro altrove. E conclude dicendo: vorrei voltare pagina cercando magari un lavoro più normale, sapere che per qualche anno avrò le condizioni per iniziare a costruire una vita, magari insieme a un'altra persona, una stabilità in un luogo per un po' di anni, un lavoro che garantisca la maternità e per il quale la nascita di un figlio non voglia dire automaticamente l'annullamento di tanti sforzi fatti, perché determinerebbe la nascita di un figlio, appunto, l'espulsione automatica da tutti i lavori in corso, lavori che non possono permettersi il lusso di un rallentamento di qualche mese, perché sono essi stessi concepiti per durare solo qualche mese. Questo dalla lettera di una laureata sfiduciata che dice: voglio andarmene, pubblicata sul Messaggero. Non è naturalmente un caso isolato, parliamo spesso di queste difficoltà, ne parliamo addirittura con trasmissioni dedicate qui su Radio 24, come sapete, ai cervelli in fuga, ed è la prima, come dire, delle segnalazioni che si possono trarre, perché anche cambiando completamente giornale, cioè passando a Libero, si apprende che la promessa di un impiego per l'assunzione di 500 giovani neolaureati, riferisce Libero, si scopre che avranno un contratto di un anno per 416 euro lordi al mese. La fantasia non ha limiti, scrive Antonio Castro sul Libero. Quale impresa non gradirebbe pagare un laureato a pieni voti meno di 3 euro all'ora? Oggi nessuno può farlo, il Ministero dei Beni Culturali sì. Gli archivisti, abilitati e laureati, hanno già bollato il concorsone come uno sfruttamento con paga da medioevo. Il 7 dicembre il Ministero, dopo l'annuncio fatto dal Presidente del Consiglio in diretta TV, ha messo in rete un esilarante, se non fosse drammatico, decreto direttoriale per una procedura concorsuale pubblica per la selezione di 500 giovani laureati da formare per la durata di 12 mesi nelle attività di inventariazione, proprio così nel testo, e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. Il tirocinio è accompagnato da un generoso, tra virgolette, assegno non rinnovabile di 416 euro lordi al mese, senza ferie né riposi né buoni pasto. Inciso: per partecipare a questo concorso, appunto con la prospettiva di un compenso per 12 mesi di 416 euro lordi al mese, per partecipare è indispensabile vantare il 110 e lode, quindi devono essere anche laureati, come dire, di vaglia, di pregio. E cambiando completamente giornale e anche area di riferimento, dal Fatto Quotidiano di oggi, la voce degli studenti, le storie dei lettori raccolte sul fattoquotidiano.it: in Italia è tutto in nero, dicono gli studenti, il futuro è come l'affitto. Scrive ad esempio Domenico da Napoli: studio giurisprudenza a Napoli, abito in provincia di Caserta, sono un pendolare senza agevolazioni né per il treno né per il bus. L'anno scorso sono risultato idoneo sia per merito che per reddito, al bando per le borse di studio, ma non ho visto un euro. Sono stato non assegnatario a causa della mancanza di fondi. Le tasse sono sempre più alte, eppure siamo costretti a seguire lezioni in circa 300 persone in un'aula dove siamo fortunati se c'è una lavagna con il gesso. Il videoproiettore è fantascienza. Per mantenermi lavoro, come ha detto, vendite con pagamento a provvigione, ma sono comunque costretto a chiedere aiuto a genitori e parenti. Storie italiane, vicende italiane di laureati che abbiamo raccolto appunto con un collage un po' ardito, se volete, ma coerente, spulciando appunto tra i vari giornali, oggi in edicola. E un'ultima segnalazione per una polemica davvero di basso livello sul compagno di Laura Boldrini, la Presidente della Camera, che appunto è stata messa sotto accusa perché avrebbe viaggiato insieme a lei, il compagno, sul volo che la portava ai funerali di Mandela a Johannesburg, una presenza effettivamente dovuta. E forse la migliore risposta è quella della stessa Boldrini, che dice: in realtà mi sembra che a fare scandalo sia il fatto che sia una donna delle istituzioni che venga accompagnata da suo marito. Nessuno si sogna di contestare la presenza di mogli o compagne al fianco dei vertici istituzionali di genere maschile. E davvero è tutto. Grazie, buona domenica a tutti. Ci risentiamo domani mattina nel corso della rassegna stampa dei quotidiani del lunedì.